Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte. Io sono Caterina del coordinamento Lesbiche Romane, quella che state per ascoltare questa sera. Ammesso che riusciamo a portarla fino in fondo, è la nostra 165esima trasmissione, ma è 165 bis, perché come vi avevamo preannunciato la settimana scorsa, anche oggi andiamo in diretta. E ci sarebbe dovuta essere anche questa volta Pina Nuzzo, ma purtroppo per motivi di salute non sarà con noi, anzi cogliamo l'occasione per farle i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Dunque, noi abbiamo pensato di fare anche questa trasmissione in diretta perché ci tenevamo a fare alcune considerazioni sui risultati referendari. Leggeremo comunque il comunicato stampa fatto dall'Udi che Pina Nuzzo ci ha inviato, quindi più avanti lo manderemo. Ci interessava prendere in esame almeno due aspetti di questa vicenda che ci sembravano importanti. Il primo è relativo ad una valutazione politica su quello che è successo e il secondo è legato invece alle conseguenze dell'accaduto, cioè a cosa non siamo riuscite a cambiare. A parlarne con me questa sera ci sono Rosina, Monica e Lucilla. Non abbiamo scritto niente, stiamo andando a braccio, quindi la nostra consueta disorganizzazione oggi toccherà il culmine. Dunque, comunque, in ogni caso, vi ricordiamo che potete contattarci immediatamente tramite SMS al numero 338-41-46682. Oppure potete telefonare a ROR allo 06 49 17 50. Potete anche segnalarci la vostra presenza facendo trillare per una volta il telefono qui di Radio Onda Rossa, che ripeto è 49 17 50. Basta fare un trillino e questo ci farà capire che siete con noi e condividete la nostra analisi. Se avete cose più lunghe da dirci potete usare il nostro indirizzo di posta elettronica, che è www.chiocciolaclrbp.it, ma comunque un SMS tanto per cominciare va bene. Adesso ascoltiamo un attimo un brano musicale. Sono le Castleberry Dupré, è un duo lesbico con il brano Hot Corn in the Fire. Religion that the Israelites are scorned, black Jews that bear affliction of a faith that's so wrong, some propaganda which led the hate, they're forced to leave their own home state with families waiting on distant shores, they have to fight this damn holy war. You say you ain't gonna rescue, but when will your relief come? You say you advocate for freedom, when will you bring your people home? The native and the eagle, they're now stranded refugees trying to just a border, not an alien by her seas. Trap seeking Israel's story. Yes, why, yeah, what will your story be? You say you think God's rescued, but when will your relief come? You say you advocate for freedom, when will you bring your people home? What you gonna do? Buonasera anche da Monica. Dunque, cominciamo questo discorso sul referendum. Ricordo ancora una volta il nostro indirizzo di posta elettronica, che è contatti@clrbp.it. Naturalmente quello di prima era il sito, se ci volete visitare ritrovate anche lì tutti i dati. Allora, e dei dati parliamo, cominciamo a parlare di quella che è stata l'affluenza, tanto per ricordarcelo un po', e la dettagliamo anche: 25,9 a livello nazionale, 29,8 al nord, 33,4 al centro, 15,9 al sud, 18,7 alle isole. È evidente, naturalmente, lo spoglio l'ha confermato alla grande, che chi è andato a votare ha votato prevalentemente per il sì. Diciamo che i quattro quesiti, con una leggera flessione su quello che è il quarto, cioè quello della fecondazione eterologa, ha avuto come sì una percentuale contenuta fra l'88 e l'89%, l'eterologa invece il 78,2%. La voce di lui ne ha detto: vince il buonsenso al di là delle previsioni. Ma è davvero così, Lucilla? Dipende da cosa si intende per buonsenso. Intanto vi ricordo che, come già vi ha detto Caterina, che leggeremo due pezzi non nostri. Uno è l'articolo di Ida Dominianni, che è uscito oggi sul Manifesto, e che fa un'analisi molto lucida, e l'altro è l'appello del dopo voto fatto dall'Unione Donne Italiane. Ed a partire da alcune cose che l'UDI nazionale, quindi l'Unione Donne Italiane, ha detto, come ha fatto e ha detto come analisi prima del voto, che a noi, elementi di riflessioni che a noi ci hanno colpito, in relazione a quello che si è andati a giocare come partita con questa tornata referendaria, ed è legata appunto per esempio alla maternità cosiddetta consapevole. Ora, noi qui siamo tutte e quattro lesbiche, diciamo che la maternità, Ciarosina dice parla per te, vabbè, ma lo sappiamo che lei è proprio una tassinara lesbica, accensione. Però al di là di questo, noi sappiamo che sono state proprio le femministe negli anni 70 e negli anni 80 che hanno rivoluzionato, rivisitato e rivoluzionato il ruolo, il mito della maternità così come veniva allora propagandato e così come veniva vissuto dalla stragrande maggioranza delle donne. E hanno incominciato a parlare di maternità come scelta e non quindi come destino delle donne, e di maternità consapevole, quindi con la battaglie che le donne hanno fatto con sia il discorso sulla contraccezione sia il discorso dell'aborto, ma anche la battaglia del divorzio. E ci sono dei dati che adesso vi dirà Monica, che sono interessanti, circa alcune le ricostruzioni proprio cronologiche, anche ricostruzioni storiche, esatto, storiche. Sì, vorrei ricordarle un attimo queste battaglie, ricordiamocele anche perché sono quelle che ci fanno anche essere qua, anche questo, esatto, l'ha detto, che ci permettono di essere qua, di riconoscerci insieme alle altre. Allora, innanzitutto importantissimo, nel 1971 per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la legge che tutela le madri sul luogo di lavoro, quindi questo è stato un punto importante, un primo punto importante. Anche se, scusami Monica, però, è da ricordare che poi quella legge di tutela delle lavoratrici madri, come si diceva, quindi delle donne della maternità nell'ambito del lavoro, rimandava al Ministero del Lavoro, di concerto con altri ministeri come quello della sanità, eccetera, di individuare, l'allora sanità, adesso si chiama salute appunto, di individuare i luoghi di lavoro pregiudizievoli sì, al proseguimento, al buon proseguimento della gravidanza stessa. Esatto, certo. Cosa che dal 71 ad oggi il Ministero del Lavoro non ha mai individuato, certo, e non è stato fatto. E quindi quelle norme così avanzate del 1971 che entrarono prepotentemente all'interno dei contratti, poi nell'ambito delle varie contrattazioni si sono persi per strada, e quindi per esempio donne che lavoravano in sanità e quindi infermiere e via discorrendo, ferriste e quant'altro, tecniche di radiologia, che quindi stavano in contatto con quindi con ambiti rischiosi per la gravidanza e che vedevano riconosciute alcune cose, poi piano piano nei contratti si sono perse e non è stato più possibile riacciuffarle perché il Ministero del Lavoro non ha mai poi provveduto a questo. Esatto. Certo. Dunque, naturalmente io ho ricordato il 1971 questa legge, l'anno prima era stata approvata la legge sul divorzio, e la legge sul divorzio che è sopravvissuta a un referendum abrogativo che è stato indetto il 13 maggio del 1974. 1978, 22 maggio, viene approvata la legge sull'aborto. Su questo magari dopo diremo qualcosa, su che cosa significa anche l'esito di questa legge rispetto sulla legge 40, quell'ultimo che abbiamo fatto, rispetto ai cardini o alcuni principi che sono lì contenuti, più che altro proprio un discorso di principi. Anche a questa legge, 22 maggio 1978, la legge sull'aborto, vengono intentati, diciamo così, due referendum abrogativi rispettivamente nel 1981 e falliscono anche questi. Ultima conquista che voglio ricordare: nel febbraio 1996 viene approvata la legge che individua la violenza sessuale come un reato contro la persona, e qui ricorderei, perché è uno dei punti secondo noi, ne abbiamo parlato importanti, ne vogliamo parlare anche con voi, questa è stata una legge di cosiddetta iniziativa popolare, che naturalmente ha fatto l'iter parlamentare, però è stata una legge proposta dal basso, virgolette, cioè attraverso uno degli strumenti consentiti per scavalcare l'istituzione della rappresentanza, come il referendum, no? Che è l'unica, una delle poche occasioni in cui la consultazione passa direttamente al cittadino, che ha il potere di fare la legge, anche se solo in maniera abrogativa di una legge già esistente. sottolineavamo che uno dei rischi, magari su questo punto poi torneremo, è appunto che esiti come questo finiscono per svilire l'istituto referendario, che è appunto uno dei pochi in cui si possa avere un intervento diretto da parte dei cittadini e delle cittadine di questo paese. E da intanto, questo intanto è un rischio politico gravissimo, tant'è vero che figure istituzionali importanti, le seconde e le terze cariche istituzionali per ordine di importanza dopo il Presidente della Repubblica, cioè il Presidente, sono i Presidenti delle Camere e il Presidente del Senato e il Presidente della Camera, del Parlamento, tutti e due si sono pronunciati per l'astensione, ed è gravissima una cosa di questo genere. Se a livello costituzionale non c'è lo stesso tipo di indicazione, sappiamo che è un reato durante le elezioni dire di non andare a votare, non lo si può dire, no? Quindi siccome la Costituzione deriva dalla lotta antifascista, e siccome durante 20 anni di fascismo la gente non poteva andare a votare, diciamo chi si è occupato della Costituzione dopo la caduta del fascismo e la liberazione d'Italia ha teso a rieducare e a portare i cittadini a tornare a votare, e quindi ha sancito il sacrosanto diritto dovere del voto. Questa cosa non è prevista per il referendum, e di questa cosa se ne strafregano quindi le figure istituzionali che non dovrebbero e non potrebbero assumere posizioni di questo genere. Mi inserisco soltanto un momento per ricordare che proprio questa diciamo attenzione che la Costituzione e la Costituente, cioè coloro che hanno prodotto la Costituzione della nostra Prima Repubblica, che tuttora diciamo qualcosina da dire forse ce l'ha, ha ottenuto che l'Italia fosse fino a poco tempo fa fra i paesi europei quella che nelle consultazioni aveva la più alta percentuale di votanti, sempre, sia nelle politiche, nelle amministrative che nei referendum o nelle altre forme di consultazione, primato che l'Italia sta via via perdendo. Sì, infatti possiamo dire che c'è almeno un 25% di astensionismo fisiologico, al quale invece purtroppo si è sommato l'astensionismo che il fronte del no, il fronte dell'astensione, insomma, definisce un astensionismo, aiutami a dire, consapevole. Sì, consapevole. Non si è capito bene rispetto a che cosa. Ho finito. Sì. Sì, infatti non si capisce bene la consapevolezza secondo il fronte del non voto, e quale livello, insomma. Poi sentirete le cose che dice anche Ida Dominiani, che sono estremamente interessanti a questo proposito. Ma ritornando quindi alla maternità intesa come consapevole, e che è il frutto anche di una battaglia di anni di battaglie delle donne e delle femministe. Oggi, mentre gli anni 70 e gli anni 80 hanno portato quindi a non vivere più la maternità come un destino, ma come una scelta, come un diritto e una scelta delle donne, diciamo che la situazione storica attuale, e questa legge va a confermare l'orientamento, l'andamento storico di questo periodo, la precarizzazione delle vite e del lavoro che porta appunto a fare le giovani donne, e per giovani donne intendiamo, badate bene, le trentenni e le trentacinquenni, quindi donne che dovrebbero essere nel pieno delle loro attività, qualsiasi esse siano, di affermazione di vita, e che invece si trovano in una situazione di flessibilità del mercato del lavoro, a dover essere le prime più flessibili, perché le donne sono più flessibili per natura, si dice, cioè perché ovviamente le donne non trovano il lavoro come lo trovano gli uomini, e quindi in questo senso c'è una discriminazione di fondo. Ecco, rispetto a questa discriminazione le donne sono più precarizzate, prima escono, quindi sono più flessibili, più precarizzate. E nel 2003 c'è stato un interessante convegno su precariato e lavoro alla Casa Internazionale delle Donne, e le giovani donne, appunto quelle 35enni, quelle 30-35enni di cui stavo parlando, erano lì che raccontavano del loro rapporto con il lavoro e della precarizzazione delle loro vite, che non consente oggi di poter programmare una maternità. Quindi queste donne in realtà non hanno più non possono più esercitare un diritto alla maternità consapevole come scelta, ma a causa di una costrizione sociale, ma anche economica, economica, e quindi un condizionamento generale, sono costrette a non fare figli. Sono quindi le possibili fruitrici quarantenni, perché il tempo stringe, le possibili fruitrici della cosiddetta procreazione medicalmente assistita. Sì, no, mi piaceva sottolineare che prima tu, parlando di donne, hai detto che nella concezione c'è la precarietà, che è un elemento naturale delle donne. Allora noi lesbiche, naturale per dire, eh? Esatto, noi lesbiche, sai, abbiamo molte cose da sulla dire, precarietà, non soltanto sulla precarietà, ma proprio su tutto ciò che viene definito naturale, no? Certo. Per cui anche la definizione stessa di naturale noi mettiamo in discussione, no? Per cui tutto ciò che viene attribuito come naturale, io ho sempre delle riserve molto grandi, spesso e volentieri non mi riconosco in ciò che viene definito naturale, perché io ho una mia naturalità che non coincide assolutamente con i canoni della comune normalità. Ecco. Esatto. E quindi per terminare queste piccole riflessioni, quindi le donne, a causa dell'andamento sociale, economico, quindi la precarizzazione delle vite, del lavoro, dell'economia che ci colpisce maggiormente, abbiamo fatto altre trasmissioni, lo sapete, sul lavoro e sulla situazione del lavoro per le donne. Praticamente si sta con la legge 40 e con purtroppo il disastro del 12 e del 13 di giugno, quindi sulla riaffermazione del contenuto fascista, direi, della legge 40, le donne si ritrovano, rientrano praticamente in una forma di statuto di contenitore, cioè ritornano ad essere un contenitore e escono invece dallo stato di individui che scelgono liberamente. In un ruolo naturale, direi. Sì, no? Un ruolo naturale, appunto. Il ruolo naturale del contenitore, esatto, che non sceglie niente, ma che ha un destino, che è quello, quindi si esce dal mondo produttivo e si rientra come se niente fosse nel mondo riproduttivo. E adesso andiamo con un pezzo musicale, mi fanno cenno giustamente, ed è un pezzo di Giovanna Marini che noi abbiamo messo in minoranza Caterina, siamo tre contro una. Il pezzo è il treno per Reggio Calabria, ed è una canzone secondo noi bellissima di Giovanna Marini. Il 22 d'ottobre del 72, in curva il treno che pareva un balcone, quei balconi con la coperta per la processione. Il treno era coperto di bandiere rosse, slogan, cartelli e scritte a mano da Roma, Ostiense, 1200 operai, vecchie, giovani e donne, con i bastoni e le bandiere arrotolate, portati tutti a mazzo sulle spalle. Il treno parte, pare un incrociatore, tutti cantano bandiera rossa. Dopo 20 minuti che siamo in cammino, si ferma e non vuole più partire. Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione, tutti corrono coi megafoni in mano, richiamano, andiamo via Cassino. Compagni da cui regge tutto un campo minato, chi vuole si rimetta in cammino. Dopo un'ora quel treno che pareva un balcone ha ripreso la sua processione, anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino. Roma Ostiense, Cisterna, Roma Termini, Cassino, adesso siamo a Roma Tiburtino. Il treno di Bologna è saltata, Piverna è una notte d'inferno, i feriti tutti sono ripartiti, caricati sopra un altro treno. Funzionari, responsabili, sindacalisti, sdraiati sulle reti dei bagagli, per scrutare meglio la massicciata, si sono tutti addormentati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. L'importante adesso è di essere partiti, ma i giovani hanno gli occhi spalancati, vanno in giro tutti eccitati, mentre i vecchi sono stremati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. Famiglia intera, tre generazioni, sono venute tutte insieme da Torino, vanno dai parenti, fanno una dimostrazione, dal treno non è sceso nessuno. La vecchia, la figlia, le rifiniture, il marito, la verniciatura, la figlia della figlia, le tappezzerie, stanno in viaggio ormai da più di 20 ore. Aspettano seduti, sereni e contenti, sopra le bombe non gliene importa niente. aspettano, che tutta una vita che stanno ad aspettare per un certificato, mattinate intere, anni e anni per due soldi di pensione. Erano 23 anni più forti del tritolo, guardare quelle facce bastava solo, con la notte, le stelle, con la luna, i binari stanno luccicanti, mai guardati con tanta attenzione, e camminato sulle traversine, mai individuata una regione, dai sassi della massicciata, dalle chine di erba sulla vallata, dai buchi che fanno entrare il mare, piano piano a passo d'uomo, pareva che il treno si facesse portare, tirato per le briglie come un cavallo tirato dal suo padrone. A Napoli la galleria illuminata, bassa e sfasciata con la fermata, il treno che pare un balcone, qualcuno vuol salire, attenzione, non fate salire nessuno, può essere una provocazione, si spargono coi megafoni, male a un piede sullo scalino, e gridano, gridano quello che hanno in mente, solo comizi la gente sente, ora passa la notte con la luce, la ferrovia è tutta popolata, contadini e pastori che l'hanno sorvegliata col gregge sparpagliato, la Calabria ci passa sotto i piedi, ci passa dal tetto di una casa una signora grassa, fa le corna e alza una mano, e un gruppo di bambini ci guardano passare e fanno il saluto romano. Ormai siamo a Reggio e la stazione è tutta nera di gente, domani chiuso tutto in segno di lutto, ha detto Ciccio Franca a sbarre, e alla mattina c'era la paura, il corteo non riusciva a partire, ma gli operai di Reggio sono andati in testa, il corteo si è mosso improvvisamente, partito appunto come un grosso serpente con la testa corazzata, i cartelli schierati lateralmente l'avevano tutto fasciato, volavano sassi e provocazioni, ma nessuno se n'è pure voltato, gli operai dell'Emilia Romagna guardavano con occhi stupidi, metà meccanici di Torino e Milano, puntavano in avanti tenendosi per mano, le voci rompevano il silenzio e nelle pause si sentiva il mare, il silenzio di quelli fermi che stavano a guardare, e ogni tanto dalle vie laterali si vedevano i sassi volare, e alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci e quanta commozione, il nord è arrivato nel meridione, alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci e quanta commozione, gli operai hanno dato una dimostrazione. Allora, riprendiamo. E adesso Rosina, che è la nostra The Voice, lo sapete, leggerà l'articolo di Ida Dominianni, un'altra pillola, un'altra considerazione, tanto per buttarla lì, è che questa legge 40, questa famigerata legge 40, stabilisce lo stato giuridico dell'embrione, cioè di una non vita, di una vita non finita, non formata, non voglio dire non vita, diciamo di una vita non terminata, non formata, rispetto ad altre vite, alla vita della donna, ed è questo un principio contrario alla tradizione giuridica occidentale. Quindi l'Italia è il primo paese occidentale che introduce una norma di questo genere, alla faccia, dico io, della critica degli integralismi fuori dal nostro territorio, e che, come si dice, cioè, guardo te ma non guardo me, e l'integralismo di quell'altri è più importante del mio. Il pastore tedesco Ratzinger insegna. Rosina, vai. Potevamo aspirare... Natzinger. Eh? Natzinger. Natzinger, uguale. Potevamo aspirare a ben altri primati, in tutti i sensi. In tutti i sensi. Primate, vabbè, esatto. Sempre primate. Vabbè. Allora, quindi vi leggiamo di Ida Dominianni l'articolo tratto dal manifesto, dalla prima pagina del manifesto di oggi. L'articolo si intitola Dopo la caduta. Allora, 15 anni e più di spoliticizzazione della società italiana precipitano in quella cristallina cifra del 25,9% di cittadini e cittadine italiani che hanno ritenuto utile esprimersi sulla legge sulla procreazione assistita. Cifra cristallina e sconfitta cristallina per chi, noi compresi, aveva creduto nel referendum non solo per correggere una pessima legge, ma anche per imporre all'attenzione pubblica un tema importante e i suoi importanti risvolti politici. Tecnicamente sarebbe stato meglio attendere che la legge venisse bocciata, come prima o poi accadrà, da una pronuncia della Corte. Tatticamente sarebbe stato meglio affidarsi al solo quesito abrogativo complessivo, quello proposto dai radicali e bocciato dalla Consulta, più chiaro e più comunicabile dei quattro quesiti parziali, troppo oscuri e troppo tecnici. Ma ormai non è questo il punto, e non è nemmeno l'usura dello strumento referendario, che pure c'è e pure domanda una riforma, ma non può diventare un alibi, l'ennesimo alibi da ingegneria istituzionale per non leggere più spietatamente il risultato. Il punto è, secondo la Domenigliani, che la valenza generale, culturale e politica del referendum non è passata nell'opinione pubblica, che evidentemente l'ha vissuto come una marginale consultazione su una questione di pochi e per pochi fatti loro, o peggio come un sibillino regolamento di conti all'interno di due coalizioni che si contendono il governo del paese. Il che vuol dire però che il fronte referendario non è riuscito a comunicare nemmeno al suo elettorato di riferimento l'importanza dirimente delle poste in gioco che la materia della procreazione assistita trascinava con sé, e cioè libertà personali, laicità dello Stato, qualità della legiferazione, statuto della maternità, della paternità e della famiglia, rapporto fra politica, scienza e diritto nel governo della vita. Si era già visto del resto negli 8 anni di iter della legge. A sinistra mancava un discorso all'altezza della sfida bioetica, non subalterno al moralismo cattolico e non ossessionato dalla contrapposizione o dalla mediazione con le gerarchie vaticane. E il bello della radio è che non potete vedere quello che succede in studio, naturalmente. Comunque abbiamo sentito un pezzettino del Zap Mama, ma intanto riprendiamo con Ida Domenigliani il seguito del suo articolo sul Manifesto di oggi. È in questo vuoto che i fondamentalismi attecchiscono, non solo in Italia. È in questo vuoto che le guerre culturali prosperano, seminando certezze sull'embrione, la vita, Frankenstein, e gettando nel discredito l'intera tradizione critica della modernità. Non è l'antico conflitto fra laici e cattolici, Repubblica e Vaticano, Peppone e Don Camillo. È una nuova mappa delle appartenenze in cui il tradizionalismo cattolico si salda con la rivoluzione conservatrice dei Theocon, una miscela aggressiva che consente alla CEI di cantare vittoria contro l'assioma modernizzazione e secolarizzazione, spalleggiata dai nuovi intellettuali atei che recitano cinicamente il verbo di Dio. L'America che ha premiato Bush e quindi è arrivata in Italia, si direbbe di sì, ma con molta convinzione in meno e molta indifferenza in più. Lì si contavano voti con le percentuali di partecipazione in salita, qui contiamo astensioni con i quorum in discesa. Il nuovo fondamentalismo germoglia nel deserto dell'apatia e del disincanto. Malgrado la convinzione spesa nella campagna referendaria dalle principali testate nazionali della carta stampata, segno inequivocabile di una rottura allarmante nel circuito di formazione dell'opinione pubblica, forse mai irreversibilmente prigioniera dell'audience televisiva. E segno altresì di una crisi di rappresentazione, prima ancora che di rappresentanza, della società, diventata imperscrutabile nei suoi umori e nelle sue oscillazioni. Quando è così, è da un paziente lavoro culturale che la politica deve ripartire, preoccupandosi di incollare le parole all'esperienza prima che i leader alle sigle di partito e di coalizione. Questa Ida Domenigliani sul Manifesto di oggi. Hey, hey, hey. Allora, e adesso, come vi avevamo preannunciato, leggiamo anche il comunicato stampa che l'Udice ha fatto recapitare e che ci ha mandato Pinanuzzo. Operazione assistita. Chi ha vinto? Sulla differenza tra un cittadino e un embrione in regime democratico, sull'obbligo da parte della medicina di aver cura di ogni corpo, maschile o femminile che sia, sulla dignità di ogni essere umano già nato e sulla sua inviolabilità, sulla laicità dello Stato, sulle regole della ricerca scientifica, la maggioranza del popolo italiano ha evitato di esprimersi. Sull'intimità della relazione tra donna e embrione e dunque sull'autodeterminazione della donna circa il proprio corpo, sul futuro della vita sessuale delle giovani donne, sul presente della procreazione per le donne che procreando senza assistenza condannano il figlio a una vita di dolore e di malattia senza speranza di guarigione, la maggioranza delle donne ha evitato di esprimersi. I referendum abrogativi di parte della legge sulla procreazione medicalmente assistita sono stati dunque vinti dall'opacità più assoluta del pensiero, dei sentimenti, delle volontà di gran parte del popolo, uomini e donne. Nell'opacità sono indivisibili l'indifferenza, l'egoismo, il pregiudizio, l'opportunismo politico, l'adesione a una chiesa, l'incertezza, il livore, la scelta morale e l'essere in tutt'altre faccende affaccendati. Era ciò che qualcuno voleva, perché silenzio e opacità consentono di governare anime e corpi, come se fossimo tutti embrioni, senza il disturbo di una democrazia troppo partecipata. Noi, l'Unione delle Donne in Italia, prendiamo atto. Prendiamo atto non solo delle rotture culturali, sociali e politiche gravi che questo risultato testimonia e produce, ma anche dell'arretramento sul piano delle libertà, dei diritti civili, del rispetto reciproco tra persone diversamente situate di fronte ai problemi della sessualità e della procreazione e della perdita di solidarietà anche fra donne. E ci muoveremo di conseguenza nel promuovere senza sconto alcuno l'autodeterminazione delle donne, nella resistenza senza indulgenze contro le cadute della laicità dello Stato, per la libertà delle giovani donne soprattutto, e perché la necessaria modifica di questa legge indecente non avvenga in un Parlamento indecentemente affollato di uomini e spopolato di donne. Questo è il comunicato stampa dell'Udi Nazionale. Ci fa piacere darvi la sede sociale dell'associazione, se volete farvi sentire, parlare con loro, dare la vostra sottoscrizione, la vostra solidarietà, la vostra identificazione con questo comunicato. È via dell'Arco di Parma 15, 00186 Roma. Se volete comunicare con loro, 0668 65 884, fax 0668 80 3492. Bene, a questo punto penso che una canzone di Ochi Curiel sia proprio attinente e il titolo è Mujer es tiempo. Mujer es tiempo. Ecco. Es un placer. Quizás tu conciencia ha dormido, tu vientre han estado violando, tus ansias han quedado vacías. Luchar fue tu verbo olvidado, miraste horizontes perdidos. Has estado entregando a ciegas como el aire en el llano. Mujer, oye tú mi llamado, por ti la esperanza ha brotado, por ti vuelve y nace la vida. Tuya. vuelve y nace la vida. Allora vi ricordiamo naturalmente che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Ecco, questo è un intermezzo ironico, mi dicono le compagne. Mi avete rotto i timpani con la cuffia, ve lo posso sei dire. Sei contenta? Contentissima, felicissima. Sdrammatizziamo un pochino. Oh, naturalmente questa è una trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno dello spazio autogestito femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87-900 MHz. Oh, vi ricordiamo che ci potete ascoltare in diretta attraverso il sito della radio che è www.ondarossa.info oppure tramite il nostro sito ufficiale, il sito del CLR, e cioè www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sulla icona in diretta per essere subito con noi. E, naturalmente salutiamo tutte quante le donne che da più parti d'Italia ci hanno mandato un loro messaggio. Se ci state ascoltando via internet ci farebbe piacere sapere da dove, e se volete mettervi in contatto con noi potete mandarci un SMS al numero che stasera proprio langue il nostro 338-4146 neanche uno, vi ripeto il numero qualora non ve lo ricordaste, dagli il tempo di prendere carta e penna, ormai è l'anarchia più totale. Allora 338, così non lo capiranno mai, 338-4146-682, oppure ci potete telefonare, grazie. Oppure ci potete telefonare il mercoledì presso la Casa Internazionale delle Donne al Buon Pastore, al CFS, allo 06-6864-201. Se invece siete informatizzate potete mandarci un'email all'indirizzo di posta elettronica contatti@clrbp.it. Insomma, entrate in contatto con noi. Contattateci. Contattateci. Guarda che ancora non c'è internet. Adesso tutto il mondo lo sa e avete una buona occasione tra poco, vero Monica, per contattarci direttamente, soprattutto, certo, anzi dovete, perché il motivo è, è il seguente, due punti mi raccomando nel microfono, se no non sento niente. Vi ricordate, niente? Vero tutte, ecco, che il martedì è una trasmissione radiofonica completamente autogestita da femministe e lesbiche, che quindi siamo con voi da tutte le settimane da 10 anni, e quindi vi chiediamo un piccolissimo aiuto. Radio Onda Rossa è una radio comunitaria, non è commerciale, è nata nel 77 come radio di movimento, e in questi 10 anni il nostro spazio autogestito ha dato voce e visibilità a tutte quelle donne o gruppi di donne che nella città di Roma, in Italia e nel mondo, oseremo dire, hanno costruito percorsi di lotta e autodeterminazione contro ogni forma di dominio, oppressione e discriminazione. Alla base del nostro progetto radiofonico c'è quindi la convinzione che uno sguardo di genere sul mondo sia un elemento qualificante e avanzato di riflessione politica e di produzione culturale. Con questa convinzione per 10 anni il martedì autogestito ha portato avanti un progetto di comunicazione che restituisce allo sguardo di genere la giusta centralità nella rappresentazione della realtà e delle dinamiche profonde che l'animano. Lo ha fatto grazie agli interventi di numerose altre donne lesbiche, organizzate o meno, che negli anni hanno trovato nel martedì autogestito uno strumento di libera espressione, comunicazione, circolazione di idee e di progetti. Lo ha fatto all'interno di Radio Onda Rossa, radio autogestita, che pratica una comunicazione libera e indipendente, basata sull'orizzontalità delle relazioni interne alla redazione e di quelle esterne, restituendo voce e centralità ai diversi movimenti che hanno attraversato la storia politica e sociale di questo paese. Radio Onda Rossa è una radio che non si finanzia con la pubblicità, ma solo con le sottoscrizioni di chi l'ascolta, sostiene e di chi trasmette. Ora la situazione economica di Radio Onda Rossa è drammatica, occorrono 5.000 euro entro fine giugno per aiutarci a sopravvivere, e quindi se volete continuare ad ascoltare le nostre vostre voci libere nell'etere, sottoscrivete Radio Onda Rossa. 10 euro per 1.000 di noi è la campagna straordinaria di finanziamento lanciata da Radio Onda Rossa con l'obiettivo di liberarsi delle incombenze economiche che ne minacciano la chiusura. per sottoscrivere puoi passare direttamente negli studi della radio a San Lorenzo, via De Voci 56, che oltretutto sarà appunto un'occasione per conoscerci, per conoscere i locali, le persone della radio, per salutarsi tra compagni e compagne. Si può utilizzare un conto corrente postale numero 61 80 40 01, ripeto 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00185 Roma. Vi ricordiamo inoltre che il martedì insieme al CLR organizza una festa di finanziamento 2005 proprio per Radio Onda Rossa, che si svolgerà nella nostra sede del Centro Femminista Separatista, via San Francesco di Sales 1B, e sarà il 18 di giugno, sabato 18 giugno, ci staremo insieme dalle 19 fino a notte fonda, resistenza permettendo. Alle 19 vi offriamo l'aperitivo, alle 20:30 faremo una cena di autofinanziamento che sarà accompagnata a partire dalle 21:30 da una performance radio. 22:33 DJ set contaminazioni elettroniche con il complesso di Electra. Vi aspettiamo tante, vi aspettiamo numerose, sappiamo che insieme possiamo fare e potremo fare ancora molto. Cose grandi. Grandissime. Allora io volevo mandare una canzone, ma credo che il tempo stringa e quindi preferisco che vengano lette poi tutte le cose importanti che avevamo portato. Casomai la canzone Summertime di Janis Joplin la metto come sottofondo al brano che sta per leggere Lucilla. Okay? Allora, già l'altra volta alcuni pezzi di questo brano sono stati utilizzati per la trasmissione pre-referendum e adesso noi ci ritorniamo su, perché è l'Associazione delle Giuriste d'Italia che si pronuncia e dice alcune cose estremamente significative. Allora, la legge 40-2004 è una legge autoritaria e disumana. Impedisce a molte di realizzare il loro desiderio di maternità. Già sta costringendo singole donne e coppie ad andare all'estero per interventi di inseminazione cosiddetta eterologa, o per altri interventi di procreazione assistita vietati dalla nostra legge e consentiti invece in altri paesi. Ma solo chi ha i mezzi finanziari per affrontare questi costosi soggiorni può permetterselo. Per altri, tutto ciò è impossibile. Quindi autoritarismo, negazione dell'autodeterminazione delle donne e discriminazione vanno di pari passo in un disegno eticamente e socialmente reazionario. Il principio di laicità dello Stato non consente ingerenze nelle scelte fondamentali della vita. E ancora, come donne il nostro giudizio è netto, di questa legge non c'è niente da salvare. Come giuriste siamo inoltre convinte che la legge è sotto vari aspetti contraria alla Costituzione. E ancora, l'autodeterminazione è un principio fondamentale dell'ordinamento, riconducibile ad un complesso di norme costituzionali, in primo luogo l'articolo 2 che sancisce il rispetto dei diritti inviolabili della persona e l'articolo 13 che contiene la garanzia della libertà personale, da intendersi anche come garanzia dell'habeas corpus femminile, cioè della signoria delle donne sull'uso del corpo a fini procreativi. E questa cosa è importantissima perché quello che sancisce la legge 40, diciamo noi, è né più e né meno paragonabile a quello che questo potere, questa cultura dominante in Italia, da noi, in Occidente, ci dice che invece dica e faccia sulle donne il mondo islamico, che le considera oggetti. Bene, con questa legge in Italia e in Occidente si fa questa cosa, cioè non si permette l'autodeterminazione. Finalmente siamo tutte uguali, no? Esatto, ecco. Beh, veramente, grazie alla Dea. Allora, questa legge, dicono ancora le giuriste, è un attacco evidente e senza precedenti all'autodeterminazione e, almeno nelle intenzioni dei suoi sostenitori, dovrebbe preludere ad una modifica della legge 194 sull'aborto. Adesso si stanno sperticando per dire no, che non è vero, ma ricordate cosa ha detto l'ex governatore della Regione Lazio? Lo ha detto. E ha detto che sarebbe stato uno dei primi impegni che si sarebbe preso come attuale ministro della sanità anzi della salute, è quello di rimettere mani alla legge 194. Ancora le giuriste dicono: sono rimaste anche tutte le altre norme di divieto che relativamente alla legge 40, che hanno la finalità di porre limiti alle scelte individuali e dal punto di vista culturale sono espressione di un bisogno di controllo volto a tacitare il senso di incertezza e a mettere paletti a tutto ciò che è frutto della diversità dei percorsi individuali. Dunque, prima di cedere la parola alla forte Caterina che sta parlando, fa la fonica, mette CD, fa tutto, meno male che c'è lei in radio, eh? Potrebbe preparare un caffè. Oddio, anche la cena, eh? Vabbè, perché noi siamo digiune. Bene, cedo la parola a lei dicendo che continuiamo ad aprire una profonda riflessione su quanto prescrive questa legge per le donne, per la autodeterminazione femminile e per la libertà in generale. Io volevo lasciare come sottofondo Janis Joplin, ma praticamente il pezzo che mi piaceva è già passato, dopo se avanza tempo me la rimetto, visto che sto al mixer e faccio tutto io. Fa quello che gli pare, fa, è una despota. Allora no, io volevo leggervi alcune cose che ci hanno scritto una compagna che ha chiesto di far girare questo suo scritto, ma che purtroppo non ha firmato. Noi abbiamo cercato di risalire disperatamente alla fonte per poterla citare, perché secondo noi diceva cose molto interessanti rispetto ai quattro quesiti referendari, alcune considerazioni che ci sembravano importanti e che volevamo di nuovo sottolineare. Allora, il divieto di fecondazione eterologa, e lei dice che la fecondazione eterologa è la tecnica che consente alle coppie in cui l'uomo è completamente sterile di concepire un figlio grazie al seme di un donatore anonimo, e questo lo sapevamo tutti. È una tecnica che si pratica da decenni in tutto il mondo e oggi l'Italia è l'unico paese che la vieta. Questo perché il legislatore, questa era la considerazione che ci sembrava interessante, è che il legislatore ha deciso di tutelare il modello tradizionale di famiglia basato su legami di sangue, e noi a questo vogliamo aggiungere che il concetto che ne consegue è quello legato all'idea che la maternità o la paternità possono essere esclusivamente biologiche e interne alla coppia. Tutto questo nega la reale costruzione, nega la reale possibilità di riconoscere una efficace genitorialità che nasce e si sviluppa attraverso la costruzione quotidiana di relazioni e di affetti. Sarebbe come a dire che tutti gli adottati o i nati al di fuori del matrimonio o i bambini che vivono in un contesto non eterosessuale non potranno ricevere mai l'affetto vero. Ma c'erano altre cose molto interessanti rispetto a un altro dei quesiti referendari, che per esempio la ricerca sugli embrioni, no? E lei si pone una domanda: se da una persona adulta in punto di morte possono essere espiantati gli organi per salvare altre vite umane, per quale motivo dalle cellule in una provetta destinate a morire non possono essere usate allo stesso scopo? In effetti è una domanda che ci siamo poste anche noi, ma io volevo anche sottolineare un altro aspetto riguardo alla ricerca sugli embrioni, alla negazione di poter lavorare sugli embrioni, che non è un discorso legato soltanto alla procreazione, è anche un discorso legato alla possibilità di trovare cure a diverse malattie, quindi non tocca soltanto la sfera della procreazione, è la possibilità di offrire cure a persone che hanno delle malattie anche molto importanti, insomma. Un'altra cosa che diceva questa ragazza, che preghiamo di identificarsi, ci farebbe piacere veramente citarla, è rispetto all'articolo 1 della legge, no? Quello che praticamente consente soltanto alle coppie sterili di ricorrere alle cure di fecondazione. Quindi si sottopone la coppia a terapie che non sono molto pericolose per la salute, ma non sono soltanto pericolose ma anche inutili, perché siccome si sta parlando di persone di cui è stata accertata la sterilità, e quindi devono essere soggette a bombardamenti molto grandi, quindi era un'altra considerazione che ci piaceva. E poi il divieto di formare più di 3 embrioni per ogni tentativo di impianto. Innanzitutto non si possono stabilire, lei dice, per legge dei numeri, perché ogni donna è diversa dall'altra e solo il medico può dire quanti embrioni sono necessari per avere delle speranze di successo. 3 embrioni poi sono quasi sempre troppo pochi, perché stiamo parlando di una donna sterile o infertile, quindi si dovrà ripetere tutto il procedimento da capo di 3 in 3 fin quando non si riesce, ed ogni tentativo di impianto implica una serie di interventi fortemente invasivi e pericolosi per il corpo della donna, senza pensare al trauma psicologico di dover affrontare una serie di fallimenti. E parlando proprio di fallimenti, io penso che il risultato finale che questo referendum ha evidenziato è il fallimento più grande, il fallimento che io come donna sento, perché mi prendo anche la mia parte di responsabilità, insomma, perché è vero che i partiti politici non hanno fatto abbastanza, è vero che di questo referendum se ne è parlato e se ne è parlato pochissimo e soltanto in alcuni momenti. Si è continuato a parlare di liste elettorali, di listoni, di coalizioni, ma del referendum soltanto all'ultimo momento, non è stata fatta chiarezza sufficiente, e quindi speriamo, insomma, che il fatto di ritrovare la sorellanza che io ho avvertito gli anni addietro possa portarci a ritrovare di nuovo una solidarietà fra donne, per poter andare avanti, per poter crescere, per poter riportare l'Italia ai livelli di civiltà che ormai, ai quali ormai ci eravamo abituate. E adesso, come avevo detto, mi rimetto Janis Joplin, e sulle note di Janis Joplin noi quattro, proprio scrollando le gocce di sudore dalla fronte, soddisfattissime per essere riuscite ad arrivare alla fine, vi salutiamo e vediamo appuntamento alla settimana prossima con una nuova trasmissione. E quindi ora ascoltiamo qui in radio, chiaramente alla settimana prossima, ma noi vi aspettiamo il 18, perché noi saremo tutte lì e vi aspettiamo, vi vogliamo conoscere. Vi ricordo appunto che sabato 18 ci sarà la festa di finanziamento al Centro Femminista Separatista, via San Francesco di Sales 1B. L'ingresso è riservato alle donne. Dai una mano a continuare ad essere libera, Radio Onda Rossa, al fatto che il martedì femminista e lesbico autogestito continui a parlare da questi microfoni. Quindi vi aspettiamo tutte direttamente vis-à-vis sabato 18 e dai microfoni di questa radio martedì prossimo. Scusa Caterina, posso dire un'ultima cosa? Certo, certo. A parte salutare tutte, ma sabato 18 guardate che c'è roba da mangiare, cuciniamo noi. cuciniamo benissimo. Non venite mangiate, insomma. E ci sono delle torte, c'è di tutto, c'è dal primo al secondo, il vino, c'è tutto, venite. Poi c'è musica, simpatia e chiacchiere. Ciao. Esatto. Noi siamo noi. Ciao da Monica, ciao da Lucilla. Scusate, è arrivato un messaggio che mi ha fatto sobbalzare, perché dice: il 60% del popolo siciliano e sardo è talassemico. Questa legge ha condannato tutti loro ad una condanna veramente incredibile. Ce l'ha scritto Sabina, che ringraziamo. Ringraziamo anche Laura e Melania, che ci hanno scritto un altro SMS che dice: libertà, vite precarie, ritorno al Medioevo, siamo circondate. Niente, va bene, sentiamo Janis Joplin, un grande abbraccio a tutte quante. Rosina, volevi dire qualcosa che mi stanno indicando te, con la faccia? Allora, ciao da Lucilla. Ciao da Lucilla. Ciao da Rosina. Ciao da Monica. E ciao da Caterina. Ciao.